A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, brutta sconfitta quella del Milan ieri sera a Roma. Resta a meno uno dalla Juventus, ma potenzialmente scivola a meno quattro se la capolista dovesse vincere il recupero, prima o poi, il recupero di Parma. E si ritrova a due punti, tra l'altro, due punti dietro, soli due, l'Udinese, che ha ripreso a vincere, che tra poco la ospiterà, lo ospiterà nel confronto diretto del Friuli. A metà mese c'è un Udinese-Milan. Quando dicevo lunedì che da qui allo scontro diretto del 26 febbraio, quello di campionato, perché in Coppa Italia ce n'è già uno mercoledì prossimo, sempre a San Siro, il calendario era nettamente sfavorevole al Milan, insomma non era poi così lontano dalla realtà. Serata pazza, certamente, sulla neve di San Siro, con quei quattro gol di Milito e i tre, uno più bello dell'altro, di Miccoli. E tra l'altro il momento di forma, in particolare di Miccoli, è assoluto ed è strepitoso, perché ieri ha segnato, ripeto, tre gol, uno più bello dell'altro, ma domenica non aveva segnato e aveva mandato invece in porta due volte Budan, inventando due assist, il primo in particolare un cross di esterno destro, credo di ricordare bene, come faceva un tempo un certo Johan Cruyff. Numeri. Beh, intanto numeri di Franco Piantanide, sia ben chiaro. Intanto la quarta sconfitta per il Milan, che sono quelle che aveva totalizzato nell'intero campionato scorso. Poi c'è un dato molto rilevante per quanto riguarda il Milan, per l'appunto, che è piccolo con le grandi, perché ha perso con Juventus, Lazio, Inter e Napoli e ha pareggiato con Udinese e Lazio all'andata, vincendo soltanto con la Roma, ammesso che la Roma si possa chiamare grande. Quindi in sette partite con squadre di questa caratura ha incassato soltanto 5 punti, la Juve nelle stesse partite ne ha fatti 15. E mi sembra, insomma, mi sembra, al di là poi della curiosità del fatto che la Lazio non batteva il Milan da 14 anni, dal 98, un 2-1 con gol di Boxic, Mancini per la Lazio e Kluivert per il Milan. Ma insomma, mi sembra molto significativo. Un'altra curiosa, certamente, è che Pazienza, questo gol di Pazienza a freddo ieri, a freddo, beh, non era difficile, vista la ghiacciaia dello Stadio Friuli, ma a freddo perché ha segnato dopo un minuto e mezzo Michele Pazienza, che aveva firmato con l'Udinese il trasferimento dalla Juve all'Udinese martedì 31 e ci ha messo appunto un minuto e 27 secondi per trovare la via del gol. Non segnava in campionato da più di un anno. Ho cercato il filmato integrale di quel minuto e 27 e non l'ho trovato. Se qualcuno tra i non tantissimi presenti a Udine magari vuole intervenire e specificare, sarebbe curioso sapere se Pazienza, prima di trovare il colpo di testa vincente su quella punizione a seguire di Natale, aveva per caso già toccato il pallone, perché non è nemmeno detto, e potrebbe darsi, e questo potrebbe anche essere un record, no? Di uno che cambia maglia e segna direttamente senza essere passato la via, come si diceva una volta in un celeberrimo gioco che si chiamava e si chiama ancora, credo, Monopoli. Inter Palermo invece è stata, pensate, la prima partita quest'anno nell'intera Europa con due giocatori a segno con almeno tre gol, i tre di Miccoli, vi dicevo, tre gioielli, e i quattro di Milito. In nessun'altra partita europea quest'anno era ancora accaduto. Certamente sia per Miccoli che per Milito i portieri avversari, o comunque le squadre avversarie di ieri, sono i bersagli ideali, perché Miccoli ha segnato 8 gol a Julio Cesar in carriera, che non sono pochissimi, e Milito è già oltre, ne ha segnati 11 sui 111 totali al Palermo. Queste alcune delle curiosità. Ce n'è un'altra, no, ce ne sono tante altre, perché poi si tratta anche di aggiornare la situazione meteorologica, che continua a tenere in sospeso lo svolgimento sia del posticipo di stasera che quello della giornata di sabato e domenica. Allora, su stasera, Novara-Chievo, per ora si disputa, ma alle 17 c'è un nuovo sopralluogo a Novara per un controllo della situazione, neve e gelo, mentre si fa strada per sabato e domenica l'orientamento di abolire e di annullare i posticipi serali e quindi di giocare tutte le partite di pomeriggio, le due in programma sabato entrambe alle 15 e tutte quelle in programma domenica ugualmente alle ore 15, compreso quindi Milan-Napoli. Questo sembra essere l'orientamento attuale, che poi ovviamente richiederà conferme. Molte altre novità, molte polemiche, alcune polemiche arbitrali in riserva. Ci sono stati due errori gravi, uno a Napoli e uno ancora più grave per il mio all'Olimpico al primo minuto del secondo tempo. Io vorrei ripassarli, non tanto come episodio in sé, avremo tempo dopo, soprattutto con i vostri interventi, immagino all'800240024 come ogni giorno, e in particolare nei giorni di post campionato, un giovedì che sembra tanto un lunedì questo, ma vorrei ripercorrerli attraverso i commenti dei due allenatori, diciamo, penalizzati, quindi quelli di Napoli e Milan. Comincerei da Mazzarri. Una partita dominata, che te hai creato tante palle gol, situazioni di salvataggi sulla linea porta vuota, eccetera. C'è la prestazione, si parla del Napoli, che prestazione ha fatto, meglio di così non credo che possa fare, gli è mancato solo il gol l'ha trovato, alla fine è un episodio che può far pendere la bilancia in certe partite, abbiamo trovato anche quello, l'arbitro ci ha messo del suo e ci ha tolto due punti dalla nostra classifica. Oggi a Genova, se non fosse stato fischiato quel fallo là, probabilmente la partita finiva 2-2, come poi noi abbiamo fatto due gol e il Genoa 3. A Siena sull'1-1 c'erano due rigori netti che non sono stati dati, netti, una gomitata di Contini sulla Vezzi dentro l'area, anche c'era anche l'espulsione, poteva essere altri due punti per il Napoli. Se lei somma le ultime tre partite sono 5 punti in più. Sì, poi si tratta sempre di intendersi su come fare le somme, no? Se sommare davvero addendi compatibili o meno. Poi Mazzarri lo commentiamo dopo. L'errore grave dell'arbitro di Genova, secondo me, è stato quello di fischiare all'inizio della partita, no? Nel senso che pronti via e poco dopo 3-0 per il Genova. Cioè, se in quella partita c'è stato qualche torto sul Napoli, io credo che veramente soltanto Mazzarri possa avere il coraggio di invocarlo. Sentiamo Allegri invece sull'errore grave del guardalinea Maggiani di ieri sera. Ma non l'abbiamo fatta assolutamente una bella partita. La Lazio tendeva a rallentarci il ritmo della partita e noi sicuramente ci abbiamo messo abbastanza del nostro e purtroppo siamo usciti sconfitti in una partita che alla fine non meritavamo, però ci sono due indicazioni importanti, questa e quella con l'Inter, l'abbiamo persa allo stesso modo. Determinato che in questi momenti bisogna metterci più attenzione, avere un pochino più di cattiveria sia quando attacchiamo che quando difendiamo, perché tutte le cose non vengono per caso. Indipendentemente dall'episodio del rigore non abbiamo giocato bene. Indipendentemente dall'episodio del rigore non abbiamo giocato bene. Sono due livornesi, Mazzarri e Allegri, indovinate voi chi dei due, fatte le debite proporzioni, chi dei due somiglia a Mourinho e chi dei due somiglia invece a Guardiola. Perché a San Siro non ci sono stati errori gravi, domanda un ascoltatore, sì, ma non altrettanto a parer mio. E Mauro introduce una serie di domande, di interventi, che dice: ma perché una volta almeno si usava il pallone rosso e adesso non si usa più? È una domanda più che legittima dopo la partita di San Siro, in cui quel pallone giallo sinceramente non spiccava, non risaltava e ti costringeva ogni tanto a uno sforzo ottico per capire dove era finito. Interessante questo messaggio. Stefano Udine dice: certo che con questi campi pesanti, dove i giocatori di fisico dovrebbero trovarsi meglio, è stata la banda Bassotti, di Natale, di Michele, soprattutto Miccoli, a fare spettacolo. Non è un caso, Stefano, non, i campi innevati, i campi ghiacciati, i campi scivolosi sono i campi ideali, secondo me, e per quanto ricordo dei miei tempi, proprio per i Bassotti, per quelli che, come diceva Gianni Brera, hanno il carrello basso, che sono belli chiattozzi e sono belli con un effetto aderenza al suolo, no? Perché l'equilibrio è precario. Un campo come quello di ieri sera a San Siro è un disastro per la gente come Lucio, indipendentemente dagli errori che ha fatto, per quelli con le leve molto lunghe. I brevi linei invece sono perfettamente a loro agio su quel tipo di campo. E non è un caso, no? Per l'appunto, che Micoli, ma lo stesso Milito, che ha quelle caratteristiche, si esaltino su un terreno di quel genere. Ilario ha chiamato dalla provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Garzini. Niente, io ho letto due o tre giorni fa che Allegri si è dichiarato soddisfatto della campagna acquisti invernale. Non so, magari sarà soddisfatto di Maxi Lopez. Avevano Matri e hanno preso Maxi Lopez. Avevano Matri? Matri, era del Milan Matri, no? Vabbè, era del Milan ai tempi. Non è che adesso poteva prendere Matri, dubito che la Juve gliel'avrebbe dato. No, ma faccio per dire. No, ecco, se fa per dire va bene. Ecco, poi giocatori come Emanuelson, Ambrosini, cotto e stracotto, ma dove vuole andare il Milan? Vince lo scudetto della Champions con quella gente lì? Beh, la Champions immagino che non si siano mai posti questo obiettivo, perlomeno in termini realistici. Il campionato, insomma, ci provano, ci proveranno. Adesso quella gente lì mi sembra leggermente spregiativo. È normale che il tifoso parli così dopo una partita persa e giocata abbastanza male come ieri sera il Milan. Ma insomma, adesso avevano Matri, sinceramente è un po' comica, no? Perché risale a qualche anno fa. Anche la Juve avevano Cerino, no? Poi però ci sono stati dei percorsi lunghi che a un certo punto l'hanno portato nell'attuale rivale principale. Bella questa notizia che arriva da Roma e che arriva dal Consiglio Nazionale del CONI. Via libera del Consiglio Nazionale del CONI alle nuove norme del codice etico che prevedono tra l'altro la sospensione automatica dei dirigenti del CONI, delle federazioni e delle leghe condannati ancorché in primo grado per una serie di reati. Stop dunque a Claudio Lotito, ma anche a Enrico Preziosi, indicato per la vicepresidenza di Lega e condannato in via definitiva a suo tempo per bancarotta fraudolenta ai tempi per l'appunto del Como. Massimo ha chiamato da Venezia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno. Io ho 52 anni, vorrei evitare l'attualità perché sentire Mazzari che si lamenta mi sono crepate le orecchie perché ogni tanto, insomma. Strano. Bisogna ricordargli come vinse a San Siro sempre in questo campionato. Sì, per esempio. sì, ma ecco. Al di là di ricordargli o di rinfacciargli, si tratta proprio di pudore, non tanto per ieri sera. Secondo me Mazzari, mi scusi se faccio un breve inciso, non era partito così male. Il Napoli ieri sera davvero avrebbe ampiamente, ma molto ampiamente meritato di vincere per tutto quello che ha costruito col Cesena, palo, salvataggi incredibili, quello di Comotto sulla linea, un sacco di sfortuna eccetera, e poi alla fine quel gol annullato ingiustamente, finissimo d'accordo, ma da lì risalire a dei torti subiti a Genova, il torto è che il Napoli è andato in campo solo l'ultimo quarto d'ora quando ne aveva già beccati tre. Chiudo la parentesi, prego. Sì, certo, io penso anche che se arrivi a un metro dalla porta e non la metti dentro comunque hai sbagliato, ma comunque a prescindere da questo. Non sempre. No, io ho 52 anni, parlo spesso con ragazzi di 30 anni, diciamo così, giovani, sì, che pensano che il calcio sia nato negli anni 90 con Sacchi, più o meno, insomma, ecco, perché poi dicono la Luna si difendeva e basta, c'era il catenaccio, però io penso a Domenghini, De Sisti, Boninsegna, Rivera, Riva, o a Bruno Conti, Tardelli, Graziani, Rossi, Bette, cioè non mi sembravano squadre tanto difensive. Io non mi diverto affatto, sono anche tifoso di una squadra, ma il calcio è sempre più brutto, gli attaccanti segnano tanti gol perché non li marca nessuno, cioè i difensori stanno sulla loro zolla, quello che accade intorno non li riguarda, a meno che non sia il calcio d'angolo, allora tutti si attaccano a tutti. Non so, veramente non mi piace, cioè, mi piace l'Avezzi, fine, ma perché è divertente, perché poi insomma fa delle cose che gli altri non fanno. Lo trovo noioso, brutto, i difensori salgono a metà campo a tirare delle gran legnate, cioè, Bellugi non l'avrebbe fatte certe cose, Rosato nemmeno, insomma aspettava il suo attaccante a 5 metri dall'area di rigore, sì, se non lo stendeva. Sì, e non è che non legnasse, perché... Ma no, legnavano, ma quando era... Vabbè, era un altro calcio, era un calcio in cui ci si difendeva di preferenza nei paraggi dell'area di rigore, sì. Si tendeva, cioè ci si arroccava per meglio difendersi. Oggi per meglio difendersi si cerca di andare ad attaccare gli avversari invece possibilmente nella loro metà campo, una cosa in cui è maestro il Barcellona, no? Il Barcellona ai tempi migliori, intendiamoci, non quello di adesso che insomma un minimo continua a giocare splendidamente nelle intenzioni, perché ormai quel modulo non lo perde, però insomma non ha più la stessa brillantezza. Massimo, grazie. Sul pallone rosso non si vedono i marchi TV, scrive Max da Treviso. Mica male. Mentre invece Luciano Labiella dice: ma l'intervista a Mazzari era quella di ieri, No, perché mi sembrava quella della scorsa settimana o forse anche quella di 15 giorni prima. Bravo Luciano, effettivamente no, è di ieri, però questa è veramente di ieri sera. Sentite i riferimenti, soprattutto quelli comici a Genova. Luciano ha chiamato da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo ritornare un po' alla partita dell'Inter ieri sera. Per carità, nulla a togliere a Micoli per la sua capacità sia di equilibrio che di classe. Però io mi ricordo quando giocavo a pallone di essere non marcato così da uno come Ranocchia e un altro che fa danni, secondo me, una partita sì, una partita no, che è Lucio. Lucio è impossibile. Certo. Mio nonno mi diceva sempre, vatti lì, lei è un gandula, non so il termine milanese, ucciulone, sì. Perché non voglio dire, non è possibile. Sì, avere dei giocatori preciso per i non milanesi che non sono affatto termini offensivi, sono termini ironici di un tempo, del dialetto milanese di un tempo. Certo, una persona molto alta, però, certo. Però per carità, sono anche giovani tra virgolette, però non si può lasciare un giocatore così, un nanino tra virgolette. Non si può, bisogna marcare. Luciano, ma soprattutto, mi scusi, soprattutto su quei campi, soprattutto su quel campo, perché si deve sapere in partenza che il nano, detto con tutta la stima, l'affetto e il rispetto, sia ben chiaro, in quelle situazioni è molto più agevolato del gigante. Infatti, come diceva lei, però bisogna un minimo di calcio averlo praticato, magari, possibilmente, e poi continuare a masticarlo. Lei ieri sera ha visto l'Inter, io ho visto in un po' di mélange tra sera e poi sera veramente tardi, ho visto Lucio qua a Milano per l'ennesima volta e ho visto Juan per l'ennesima volta anche a Cagliari. Ho pensato che Juan e Lucio erano la coppia centrale della difesa del Brasile del 2010 e insomma, è evidente che il Brasile strada non ne poteva fare, al di là di episodio che gli sia andata male con l'Olanda, ma se quella è la coppia centrale del Brasile, ecco perché il Brasile da qualche tempo va fuori un pochino più presto del previsto. Cristian ha chiamato da Pisa, buongiorno. Salve, buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Due brevissime considerazioni riguardo a uno, la programmazione di acquisto dell'Inter, infatti con tutti questi giocatori che sta cercando di rimettere assieme ora per il centrocampo dell'Inter, che mi sembra così campata in aria, e anziché fare una programmazione in tempi estivi. E secondo cosa, la differenza, lei citava prima, tra Allegri e Mazzarri, da Mazzarri a Mourinho. Secondo me Mazzarri ha molti discorsi, Mourinho non è un allenatore ma un grandissimo motivatore. Forse quello che manca all'allenatore del Napoli, con tutto il bene che si possa volere al Napoli, perché il Napoli fa delle egregie partite quando contano, più o meno fortunate, in Coppa dei Campioni giustamente ha passato il turno e si sfascia con le squadrette. Questo vuol dire che probabilmente... Beh, questo, Cristian, questo va così quest'anno, l'altro anno non andava. Io credo che il non saper accettare una sconfitta prescinda da Coppa, Campionato, piccole, grandi, credo che prescinda, credo che faccia parte del DNA culturale di una persona. Il DNA culturale di Mazzarri da questo punto di vista, mentre è indiscutibile sotto il profilo tecnico, tattico, della preparazione, da questo punto di vista no, con la differenza con Mourinho, semmai, che Mourinho la recita la parte da guappo, no? E la recita anche abbastanza bene, anzi ci ha costruito buona parte delle sue fortune. Mazzarri la recita anche male e questo sinceramente è anche un pochino triste, se vogliamo. Tra poco, dunque, intanto domani, eccolo qua un messaggio. Ma lei col biglietto in tasca partirebbe da Verona per Novara? Guardi, io non riesco a immedesimarmi, perché il biglietto in tasca per Novara Chievo, con tutto rispetto, non credo che l'avrei, ma certamente mi guarderei bene dal partire in questo momento per un viaggio così lungo. La stessa Protezione Civile sta dicendo che sta continuando ad avvisare che da qui almeno a lunedì o martedì, se non è necessario strettamente, è il caso di evitare di mettersi in viaggio. Sinceramente questa non mi sembra una di quelle occasioni davvero necessarie di viaggiare. Premesso che me ne farei una ragione, scrive Emi da Bergamo, nel caso giocassero tutte le partite alle 15, a me abbonato Sky darebbe un po' fastidio, visto che le partite le guardo la sera. E se lei la sera scoprisse qualche partita più divertente da vedere, Emi, come la metteremo? No, adesso a parte le battute, sta davvero prendendo forma questo progetto. Tant'è vero che su alcuni siti già sono cambiati gli orari delle partite. Per esempio, Roma-Inter delle 20:45 di sabato sera si potrebbe giocare, probabilmente si giocherà alle 15 dello stesso giorno, cioè di sabato, e altrettanto probabilmente Milan-Napoli, salvo geli poi superiori a quelli che ci si attende, per questo può accadere ancora su qualunque campo, ma proprio per provare a prevenire questa eventualità e questo rischio, insomma, si pensa di anticipare anche Milan-Napoli alle 15 del pomeriggio di domenica. Gabriele ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno dottor Caranzini. Dica. Allora, avete citato tutto su Mazzari, però volevo dire ancora la mia. Io sono tifoso bresciano, quindi sono al di sopra delle parti, penso. Al di sopra. Però questo Mazzari, tutte le volte che si sente in conferenza stampa, sinceramente passa la voglia di sentire, di parlare di calcio, di guardare il calcio. Cioè non si può, tutte le domeniche ne ha una, il sabato ne ha un'altra. Cioè quella di Genova è stata ridicola. Sì, quella di Genova è stata ridicola davvero. Io vedo qua, c'è un campionario di messaggi, Gabriele, sotto gli occhi, che è abbastanza impressionante, da Mario Merola in giù, mancando di rispetto secondo me a Mario Merola, comunque tanti, ecco, effettivamente è abbastanza insopportabilino, ma in molti hanno adottato invece la battuta che avevo letto prima di quell'ascoltatore biellese e si stanno esercitando sul tema, cioè se in realtà non trattisi di un'unica intervista del, non so, 2006, che poi noi aggiorniamo usando la voce, aggiorniamo di domenica in domenica o di mercoledì. Matteo dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Niente, mi riallacciavo al discorso meteo, forse ne ha già dibattuto nei giorni scorsi. Mi veniva alla mente due partite significative: Juve-Liverpool, Supercoppa Europea dell'85, con doppietta di Boniek, non so se lei ha buona memoria. Certo che sì, anche perché faceva un freddo quella sera allo stadio che, guardi, non vorrei ricordarmelo. Allora, un campo innevato, pallone rosso e doppietta di Boniek, sì. E io da buon atalantino mi ricordo un Atalanta-Cagliari Coppa Italia giocata a gennaio, col campo impraticabile, quarto d'ora prima della partita, e i ragazzi della curva giù a spalare. Ora mi chiedo, una volta c'erano le rose ristrette, 17-18 giocatori. Questi sono super atleti e per la sudditanza delle televisioni arriviamo a quei punti qua. Mi sembra veramente una cosa, non so, non ho più parole, aspetto un suo commento, grazie. Ma io sono d'accordo sino a un certo punto. Se la qualità dello spettacolo deve migliorare, tanto vale che si mettano le squadre in condizioni di dare uno spettacolo migliore di quello che non si dà invece su un campo ghiacciato. Poi noi possiamo rimpiangere i tempi eroici finché ci pare, ma non è una buona ragione per non provare a superarli invece ad andare oltre, almeno in teoria questo. Quindi il progetto è molto più lungo, dovrebbe essere molto più lungo, e cioè stadi in grado di sopportare una nevicata E di avere ugualmente un terreno praticabile, come è stato sabato sera a Torino, no? Abbiamo un esempio freschissimo proprio, che è un riscontro. Peccato che quello stadio sia unico in Italia e tutte le altre invece siano in ritardo di anni, e qualcuna di anni luce, parlo di società, per farsi degli stadi. E poi tutto il resto di conseguenza. Certo che se, come qualcuno ha ricordato nelle ultime ore, se lo sproposito di quattrini che in questi anni le società hanno incassato dalla Pay TV, anziché investirle sugli stadi, cioè guardare lontano, le investono in giocatori per fare, come dice lei, le rose troppo ridondanti, è chiaro che non si andrà mai da nessuna parte. E quindi torniamo che la colpa principale è sempre, a parer mio, delle società e della Lega. Marcello ha chiamato dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Buongiorno. Dunque, io volevo brevemente riallacciarmi al discorso degli errori arbitrali, no? Sì. Volevo sottolineare che tutti si lamentano, gli allenatori, Mazzarri, Allegri, eccetera. No, Allegri non si è lamentato. Ah, mi scusi. Stavolta no. perché volevo dire questo, che quando si tratta di avere dei favori arbitrali, allora vedi Mazzarri, nel caso va tutto bene. Quando capita la volta che l'errore da parte dell'arbitro ci sta, d'accordo, l'errore era evidente, però non dovrebbe lamentarsi più di tanto. No, ma lo so, questa Marcello, questa è vecchia come il calcio, nessuno accusa mai ricevuta, no? di un favore arbitrale, e tutti accusano soltanto ricevuta dei torti. Detto questo, ieri sera mi sembra particolarmente apprezzabile la posizione di Allegri, che altre volte invece non si era, pur essendo una persona molto corretta, non si era, altre volte gli era scappato un pochino la plomb. Ieri sera perfetto, perché anche in quel brevissimo cenno a quel rigore ha comunque immediatamente aggiunto: ma noi abbiamo giocato male, che mi sembra il modo corretto di porgere. Detto questo, l'errore dell'assistente Maggiani di ieri sera all'Olimpico è molto grave per il mio. Perché? Perché io sono della teoria che il guardaline o assistente, perché oggi è nobilitato, si deve fare gli affari suoi, a parer mio, nel senso che il suo vero compito è l'offside, e su questo sono diventati non bravi, bravissimi. Peccato che ogni tanto tendano ad allargarsi, no? nel caso di ieri sera, sia a Napoli ma che soprattutto a Roma, il guasto l'ha fatto un assistente che si è allargato, perché l'arbitro che è a tre metri, l'arbitro di Lazio Milan, ha visto esattamente, il mani di Dia si è fischiato il calcio di rigore. A questo punto arriva il fenomeno, che è lontano 40-30 metri almeno rispetto a lui dall'azione, e che dice: no, ho visto meglio io il mani di rigore del Milan. E no, invece, ma a quel punto è anche la personalità dell'arbitro D'Amato che deve dire: senti, fate gli affari tuoi, fate gli affari tuoi, che ero qua io più vicino, ho visto io. Ma nella concitazione del momento è facile raccontarla come la racconto io adesso. L'errore comunque nasce spesso in queste abbinate dalla voglia, non dico dalla voglia di protagonismo del guardaline, ma quasi, da qualcosa di molto simile. Luca da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io ho trovato un po' ingeneroso i commenti, anzi, anche degli altri ascoltatori nei confronti di Mazzarri, e le dico anche perché. Sì. Perché Mazzarri per scelta ha deciso di partecipare alle conferenze stampa soltanto delle partite in cui il Napoli perde o pareggia, quindi si trova già, diciamo, in una condizione diversa dagli altri allenatori che si autoincensano quando le cose vanno bene. Mazzarri manda i ragazzi in conferenza stampa. Ma questo qua, dobbiamo, no, dobbiamo dargliene atto. Ma in che film? No, glielo dico io, perché più di una circostanza, anche nelle partite di Champions League, Mazzarri spesso si è ritirato sul pullman. La volta che era stato espulso, sì, perché non puoi partecipare alla conferenza stampa dopo, la volta che ha beccato due giornate, ma le altre, Luca, non mi risulta. Le porterò un catalogo di interviste, no, lo spedisco direttamente a lei e non vorrei infliggerlo agli altri ascoltatori. Di interviste rilasciate correttamente da Mazzarri in sala stampa quando il Napoli vince, ma ci mancherebbe altro. Poi se mi permette anche il parallelo. No, io le permetto qualsiasi roba, però non di raccontarci delle fregnacce, però, scusi. Permetta che io forse abbiamo visto un film diverso. Comunque. No, ma è lei che ha visto un film diverso rispetto a quello che è andato in onda nelle sale, in tutte le sale in cui il Napoli gioca, gioca normalmente, ma anche perché è un problema di correttezza e addirittura contrattuale quello di presentarsi in sala stampa. E Mazzarri correttamente si presenta sempre. Vabbè, comunque, io quello che volevo anche sottolineare è il fatto che, a differenza del paragone Guardiola-Mourinho, che vede sempre vincitore il buon Guardiola, Mazzarri ha rifilato 3 gol a tutte le squadre di prima fascia. E questo significa una volta di più che lei non ha capito niente. Non ha capito niente di quello che intendevo dire, intendiamoci. Poi lei certamente si intenderà di calcio molto più di me. Non ha capito l'assunto. Io parlavo di fair play, parlavo di educazione, parlavo di rapporti e parlavo di rispetto del risultato dell'arbitro e dell'avversario. Non parlavo di tecnica o di tattica o di risultati. Io continuo a sostenere da un sacco di anni che Mazzarri ha fatto nelle ultime stagioni uno dei capolavori assoluti del calcio italiano, che è salvare la regina partendo da meno, non so più se 11 o 12, e salvandosi con largo anticipo. Poi che riuscisse a piangere ogni domenica per i torti arbitrali anche allora fa parte del personaggio, e voi vi potete immaginare quali sono i torti arbitrali che subì la regina quell'anno se riuscì ugualmente a salvarsi partendo da meno 11 o 12, no? È evidente che è un personaggio fatto, costruito e pensato così, però le ripeto, io le lascio qualsiasi diritto all'opinione, ma lei non ci racconti delle cose che non sono vere, perché sennò non, si fa fatica a capire. Ieri sera, tra l'altro, ho sentito un coro di bu razzisti particolarmente forti dalla curva nord dell'Olimpico nei confronti di Seedorf, ma proprio di quelli che anche attraverso il televisore passano e passano molto forte, e ho pensato che è triste che nel 2012 siamo ancora lì, no? Dove questa povera curva era ferma da non so quanti anni. E poi però è anche giusto riflettere che probabilmente Seedorf è bello, bravo, ricco, elegante e direi intelligente. Forse i fischi arrivano da lì, i bu arrivano da lì per la evidente incompatibilità, no? tra le menti malate e un soggetto di quello spessore. Andiamo a sentire che cosa Nicolino Filippone ci ha estratto per questo 2 febbraio. Sembra ieri. 2 febbraio 1964. La Fiorentina di Chiappella sbanca Bergamo battendo l'Atalanta per 7-1. Nel ruolo di mattatore c'è il campione svedese Kurt Hammarin, che batte per 5 volte Pierluigi Pizzaballa, portiere che passerà alla storia perché la sua figurina era introvabile. L'esploit di Hammarin diventa ed è tuttora il record di reti realizzate nella massima serie da un calciatore in trasferta in una singola gara. Lo svedese ha segnato in Serie A 190 gol in 400 gare, con le maglie di Juventus, Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, tra il 1956 e il 1971, ed è il 7° marcatore di sempre. Grande giocatore Kurt Hammarin, e anche splendida persona, tra l'altro. Carlo ha chiamato dalla provincia di Como, buongiorno. Buon pomeriggio, Garanzini. Dica. Mi riferisco brevemente al discorso di Nicoli del cross di esterno destro. Sì. Lei si ricorderà, perché io me lo ricordo nella trasmissione sportiva che lei partecipava, un cross del 3-2 di Causio a Bettega nella rimonta da 0-2 del Milan di Marchioro. Identico a Nicoli, tranne dalla parte opposta. Dalla parte destra. Opposta. Si ricorda? Non nitido come ieri sera, perché saranno passati quei 30-35 anni, non di più. E lei probabilmente è anche tifoso e quindi fa parte del suo bagaglio, no? Mnemonico. Io adesso che lo dice, avvolto in una fitta nebbia, ma probabilmente qualcosa del genere ricordo. Causi era un altro che ogni tanto cercava il cross di esterno, però è anche vero che aveva un interno talmente morbido che in genere crossava normalmente. Cruyff invece aveva proprio il vezzo di crossare l'esterno, ma anche per un'altra ragione. Cruyff era ambidestro, però pur sapendo usare come il sinistro, usava il destro di preferenza. E allora, dato che spesso e volentieri le sue scorribande venivano più sul centro-sinistra e sulla sinistra che non sulla destra, quando poi arrivava sul fondo allargava a schiaffo, no? questa gamba per crossare con l'esterno del destro. Poi malauguratamente qualcuno ha pensato di imitarlo, no? Il famoso Trivela, che è uno dei pacchi d'ono rifilati da Mourinho, ma insomma lì il discorso sarebbe davvero lungo. Invece, grazie del suo intervento, volevo ripassare ancora qualche curiosità di quelle di Franco Piantanida, perché sì, ieri il Cagliari ha segnato 4 gol alla Roma, ma tra i meriti del Cagliari e i demeriti della Roma, se pensate che il Cagliari ha segnato 6 gol in casa nelle precedenti 9 partite, capite bene che farne 4 in un colpo solo evidentemente significa che qualcosa non torna. C'è un numero anche che conferma la congiura arbitrale nei confronti di Mazzarri, perché effettivamente nelle ultime 4 partite il Napoli ha fatto 3 pareggi e una sconfitta, e abbiamo sentito prima di chi è la colpa. Greg, per la verità così è firmato l'SMS, scrive: complimenti a Luis Enrique, e ha ragione, perché lui davvero non parla mai di arbitri. Ieri c'era un rigore clamoroso per la Roma, eppure ha detto che la sua squadra ha fatto schifo. È vero, ha ignorato completamente questo episodio, che poi era clamoroso fino a un certo punto, e si è fissato, insomma, ha fissato l'attenzione soltanto Sul disastro della partita romanista di ieri. Giusto. Giuseppe ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Le volevo chiedere 2 cose per quanto riguarda il Napoli. Sì. La prima, non è vero che Mazzarri si lamenta, perché se lei vede le partite del Napoli oppure segue qualcosina del Napoli, sono tre partite che il Napoli ha avuto dei torti incredibili. Incredibile, a Genova e... soprattutto incredibile, ripeto, quel disgraziato di arbitro ha fischiato all'inizio della partita col Napoli non ancora in campo e il Napoli è entrato solo sul 3-0. Genova non dobbiamo metterla a Genova, perché se il Napoli a Genova avrebbe giocato 10 minuti del secondo tempo, il Genova prendeva 4-5 palloni come le ha prese all'andata. Punto primo. Punto secondo, se lei guarda, sì, i portieri che vengono a Napoli sono tutti bravi, la partita successiva fanno delle papere esagerate. Una leggenda. Giuseppe, lei sì che è piacevole da ascoltare, non Mazzarri. Questo si rende conto della differenza che c'è? Cioè, se la vogliamo fare la sceneggiata, facciamola bene, come la sta facendo lei, non come quello che è di Livorno. Poi per una cosa però, io da comune mortale, ieri sera per il gol annullato a Napoli ho perso 2000 euro con la SNAI. Chi me le deve risarcire? Bandi? No, non credo proprio. Voi dovete pure pensare questo, però. No, questo mai. Questo non lo penserò mai, assolutamente. Perché mi spiace, ma questo fa parte dell'alea. O lei mi prova che Banti ha truccato la partita prima, no? Beh, magari per far perdere 2000 euro a lei, oppure questo. Lei capisce che è leggermente oltre, no? Quello che si può... che si può accettare. Semmai ne parliamo con qualcuno che se ne intenda un po' di più, un giorno o l'altro, con i doni, i signori e compagnia, no? Che così bene hanno fatto al calcio italiano e al movimento in genere. Alessandro da Cosenza, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io volevo riallacciarmi al discorso delle partite notturne. Oltre al servilismo che magari possono essere quello della Lega e delle società, ma io volevo dire, insomma, i nostri calciatori fanno Natale a New York e Capodanno a Cortina, per più di 20 giorni di vacanza, magari un po' meno vacanze come fanno in Premier League, e evitare di accavallare i calendari senza avere un minuto di sosta dopo la sosta natalizia, insomma, che io la reputo eccessiva per persone che oltretutto hanno quegli stipendi. Non so cosa ne pensa lei. Il contrario, Alessandro. Grazie. Io sentirei Guidolin, perché ieri sera, nonostante l'Udinese sia prontamente tornata alla vittoria dopo la sconfitta di Torino, il pubblico a Udine mugugnava. Allora, Guidolin all'idea che a Udine comincino a eccepire su un terzo posto i risultati di quest'anno, diciamo che ha messo un po' gli scarponi. Sentiamo. Mi è piaciuta tutta la mia squadra nel secondo tempo, perché avevamo capito abbastanza presto di avere una giornata opaca, condizionata dal vantaggio lampo che ci ha fatto pensare che potesse essere semplice, e quindi nel secondo tempo abbiamo accorciato di più, pressato di più, non abbiamo più corso rischi. Confermo che se il Lecce avesse pareggiato non ci sarebbe stato nulla da dire, nel primo tempo soprattutto. Io quindi sono contento di tutta la mia squadra. Ha saputo tirar fuori le armi giuste per vincere una partita, forse nella prima giornata opaca da quando giochiamo quest'anno, soprattutto in casa. E sentire i mugugni della gente non mi è piaciuto molto, ve lo voglio dire molto chiaramente. Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanina in redazione, buon pomeriggio a tutti. Arancia Rosaria, la salute vi è mangiando e bevendo. Aranciarosaria.it vi ha presentato A Tempo di Sport.